questo quartiere. Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Ore 16.08, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. 06 49 17 50 è il numero di Onda Rossa per contattarci in diretta e partecipare alla trasmissione. Direi che possiamo subito iniziare, così dando meno spazio alla nostra bellissima sigla In fila per tre di Bennato, ma insomma la sentite tutti i martedì, per cui iniziamo subito a trattare di un argomento di stringente e anche pesante attualità. Allora si tratta di qualcosa di cui forse abbiamo parlato accennandola, una questione che è stata messa sul tappeto già all'inizio di quest'anno scolastico, ma che poi è rimasta dormiente per tutto l'anno scolastico, finché il 21 di questo mese il ministro Profumo ha pubblicato un decreto che sancisce la questione della migrazione degli insegnanti e le insegnanti inidonee, cioè quelle e quelli che sono stati dichiarati inabili a svolgere il lavoro in classe, praticamente la migrazione nei ruoli del personale ADA o in subordine in una mobilità intercompartimentale, sempre ovviamente il lavoro di ufficio. Non solo questi, che sono circa 3.300 quelli individuati a livello nazionale, ma anche 500 circa docenti di due classi di concorso, la C555 e la C999, che sono classi di concorso in via di estinzione. Si tratta di insegnanti tecnico-pratici, perché non tutti forse sanno che negli istituti professionali e negli istituti tecnici convivono tre figure per determinate materie: l'insegnante laureato, diciamo così, poi l'insegnante tecnico pratico o di laboratorio e infine l'assistente tecnico di quella particolare materia. Ebbene, quello appunto che con grandissime polemiche e grandissima opposizione era stato annunciato, adesso manca ancora la firma del Ministro dell'Economia e della Funzione Pubblica, ma dato l'attivismo sfrenato di questo scorcio, non tanto di legislatura perché è bella che è finita e è cominciata quella nuova, ma di questo scorcio di esercizio governativo che dovrebbe essere soltanto per l'amministrazione ordinaria, è uscito fuori questo decreto, fra l'altro all'indomani di un incontro che c'è stato il giorno prima proprio al Ministero, perché anche i sindacati su questo, i sindacati diciamo tradizionali su questo, hanno manifestato una grandissima opposizione, hanno fatto molti rilievi. In sostanza questi docenti che a seguito di visite collegiali mediche degli organismi preposti, in particolare la commissione medica di verifica, che è un'emanazione del Ministero del Tesoro, sono stati appunto dopo questa visita dichiarati non idonei all'insegnamento, e gli insegnanti di queste due classi di concorso ormai praticamente sparite d'imperio verranno transitati nei ruoli del personale ATA e in subordine, dicevo, in una mobilità intercompartimentale. Questo gli inidonei hanno anche gradi diversi di di malattia, chiamiamola così, o di inidoneità. Ci sono quelli che sono comunque poi stati pensionati perché dichiarati inabili a qualsiasi tipo di proficuo lavoro, questa è la formula, e quelli invece che sono stati dichiarati non idonei al lavoro in classe ma idonei ad altri compiti, e di questi si tratta. E, abbiamo detto che c'è questo decreto che comunque è estremamente fumoso, non lo diciamo solo noi, lo dicono anche quelli che di mestiere fanno gli interpreti dei decreti, cioè gente che sta magari distaccata nei sindacati e non solo, e è veramente complicato venirne a capo. Però la sostanza poi qual è? Che intanto, primo, questo ha generato un problema molto grosso per quanto riguarda i precari del personale amministrativo soprattutto e tecnico, perché i posti che eventualmente erano disponibili, non solo quelli di diritto, cioè quelli privi di titolare, ma anche quelli che per altre ragioni, distacchi e così via, del personale di titolarità venivano affidati per un anno al personale precario, sono rimasti praticamente congelati. I provveditori, di uffici scolastici delle varie province, non hanno effettuato le nomine che ogni anno fanno, e quindi questi posti dovevano però essere coperti e sono stati coperti dalle scuole con una formula che è quella fino a nomina dell'avente diritto, perché si aspettava che da un momento all'altro magari arrivasse la nomina appunto dell'ufficio scolastico, e poi comunque perché questi posti erano stati dichiarati in organico o di fatto o di diritto vacanti e quindi andavano coperti. Cosa è successo? Che le scuole hanno chiamato ovviamente sulle loro graduatorie di istituto, per cui si è verificato molto spesso che persone che magari non erano in una determinata graduatoria, ma con più punti delle persone che sono state chiamate dalle scuole, non hanno avuto l'incarico che magari avrebbero avuto. Su questo poi c'è ovviamente in piedi anche un ricorso per avere almeno il riconoscimento del punteggio giuridico per la prossima scadenza del rinnovo della graduatoria per l'anno prossimo, anche se qui a questo punto non si sa veramente cosa succederà. E poi c'è un altro aspetto, che è quello dell'immissione appunto di 3.800 lavoratori e lavoratrici che transitano appunto da un ruolo di insegnamento e dovrebbero trovarsi a fare gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi, e il decreto parla anche di collaboratori scolastici, che per chi non lo sa sono quelli che una volta si chiamavano bidelli. E questo, fra l'altro, oltre all'aspetto dell'ingiustizia anche di una collocazione forzata di una persona che è entrata con una qualifica, con un appunto in un profilo, in un ruolo, come si diceva una volta, professionale di insegnamento, invece genera anche grossi problemi nelle segreterie, che già sono veramente sobbarcate, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, da quelle che qualcuno molto giustamente ha chiamato molestie burocratiche, ma non solo da quelle, cioè da un carico di lavoro enorme, e quindi si verrebbero a trovare persone assolutamente non formate, non preparate e anche di una certa età, insomma, il che sicuramente non aiuta a impratichirsi con cose di cui non si conosce nulla, e quindi insomma questo sicuramente genera un problema, e a fronte appunto della mole di lavoro che le segreterie normalmente si trovano ad affrontare. Forse sarebbe un po' diverso sul piano proprio del lavoro pratico il transito nel ruolo degli assistenti tecnici, perché in fondo sono persone molto più qualificate, no? Che hanno magari, anche se poi il titolo di studio oggi per fare l'assistente tecnico, per fare l'insegnante tecnico pratico è lo stesso, è un titolo di studio superiore e varia a seconda ovviamente della materia nella quale poi si va a insegnare in laboratorio, a fare l'assistenza tecnica, come si chiama. Però insomma rimane il problema a cui avevo accennato. Il decreto, che come dicevi tu è completamente fumoso, incomprensibile, scritto male, tant'è che lo stesso coordinamento nazionale dei bibliotecari scolastici, dove molto del personale docente in idoneo lavora, e che segue la vicenda ormai da oltre un anno, è sconfortato, perché appunto almeno nella forma si poteva formulare un pochino meglio, se non nella sostanza. Comunque vari sono i punti, anche molto contraddittori, incongruenti, perché da un lato si dice che questo personale appunto è inidoneo, quindi non malato, però dall'altro chissà come mai viene menzionato che nella segreteria più di un'unità di questo personale non ci potrà essere. Perché? Perché evidentemente potrebbe essere in qualche modo, forse di ostacolo, di intralcio, non si sa, però non più di un'unità. In più dispone il pensionamento, quando ben sappiamo che poi il pensionamento, qualora le persone appunto volessero di nuovo ricorrere a visite collegiali e quant'altro, e fossero di nuovo risultassero di nuovo appunto inidonee all'insegnamento frontale, poi fondamentalmente e possono far domanda di pensione, ma come abbiamo già affrontato in altre trasmissioni, qui anche il pensionamento è bloccato, tant'è che è bloccata tutta l'immissione in ruolo poi di tutto il personale, specialmente ATA. Io rimanderei a una prossima eventuale approfondimento con qualche docente inidoneo quello che riguarda in particolar modo i docenti inidoni, in quanto ATA, in quanto personale amministrativo, anche se la lotta è stata condotta da alcuni sindacati in modo congiunto. Quello che c'è da dire su questo decreto, che poi anche qui si vuole fare cassa tagliando posti di lavoro, cioè tutti i precari storici che da 10 anni almeno sono in queste graduatorie permanenti aspettando un'immissione in ruolo, parliamo di personale ATA, in particolar modo quello che tocca maggiormente sono gli assistenti amministrativi, si dimenticheranno dall'anno prossimo, se le cose rimangono così, di poter appunto accedere a un posto anche solo di supplenze temporanee, perché a questo punto sembra che dalle risultanze pubblicate dallo stesso ministero, dall'ufficio quinto, non c'è nemmeno il posto per gli inidonei praticamente, cioè qui sono tutte le tabelle delle varie regioni suddivise per province e per città, e qui per esempio nel Lazio avremmo il transito appunto del personale docente inidoneo più gli insegnanti tecnico-pratici. Nel solo Lazio sono previste 369 transiti, chiamiamoli così, che brutta parola anche questa, e le disponibilità secondo loro mai pubblicate dell'organico ATA al novembre 2012 erano 119, quindi c'è un minus di 250 unità, quindi anche lo stesso personale inidoneo non troverebbe spazio secondo questi conteggi. E comunque poi è prevista una graduatoria, infatti, sì, che non, per titoli, per anzianità, non si capisce bene, non è nemmeno chiaro il nodo tra chi è titolare in una provincia ma utilizzato magari in un'altra, che tipo di fine dovrebbe fare. Una cosa va detta, che non è che questi docenti cosiddetti inidonei fino ad oggi sono stati seduti a grattarsi la pera, cioè sono stati dislocati per esempio moltissimi e moltissime nei servizi di biblioteca delle scuole, che per quanto snobbati e magari ma non certo per colpa di queste persone, comunque dovrebbero essere uno dei punti centrali. Ci sono biblioteche a Roma che veramente, io che ho cercato in passato per motivi di studio dei libri anche molto rari, ci sono biblioteche a Roma, delle scuole che sono inserite poi nel circuito, nel database generale, che hanno dei libri insomma di importanza notevole, non parliamo dei tomi originali del 600 cose, cioè parliamo anche di libri insomma di tantissime discipline. Quindi questo va dato merito anche a tutte e tutti quelli, non solo in idonei ma comunque sono parecchi, che si sono operati per far funzionare queste biblioteche, e diversi e diverse sono stati anche impiegati dentro gli uffici, quindi questa mobilità intercompartimentale, come viene chiamata, ha un senso. Sulla questione poi delle un altro problema che riguarda qui strettamente il dramma che a questo punto dei precari, l'ha detto la compagna, no? Perché a questo punto, se non ci sono manco i posti per sistemare tutti questi ridoni, figuriamoci mai se ci saranno posti per chi è precario da tanti anni. Però c'è anche il problema che sono persone che, per quanto non totalmente inabili, hanno sicuramente delle patologie, dei problemi, e quindi sicuramente non potranno assicurare un servizio continuato, insomma, come magari potrebbe fare qualcun altro. Insomma, sono persone che hanno spesso bisogno di cure, perché sono persone che hanno dei problemi di salute, se no non si troverebbero in questa condizione. Sì, no, volevo solo leggere, però all'interno del decreto trova spazio una piccola cosa, che questa utilizzazione, questo transito, però per coloro che si trovano a lavorare negli uffici periferici, no? Mettiamo il caso gli USP, MIUR o quant'altro, ecco, lì è a discrezione del dirigente l'opportunità o meno di lasciare la persona nella sua sede e con il suo incarico. Con tutto il cuore ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo il paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Buona cucina, del sole che splende mentre il resto va in rovina. Ribalta perfetta per il vecchio pantalone che tiene dentro il sacco la nuova generazione. Questa è la terra del genio popolare, gettato alle ortiche e poi lasciato a macerare. Ma torneremo presto anche più poveri ma belli, se non si ferma subito la fuga dei cervelli. Sia Francia o sia Spagna, vanno tutti bene, basta che se magna. Sempre assai devoti ai santi in paradiso, ma chi il santo non ce l'ha, ha ingannato anche l'eriso. Fallimenti, peculato, aggiotaggio e concussione, furto, falso bilancio, frode fiscale, corruzione. Sguazza la nazione nei suoi mali e tuttavia la popolazione è in preda all'apatia. Oh Italia mia, io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Questi erano Le radici nel cemento, il paese Pulcinella, la sentiremo intera un'altra volta perché abbiamo una compagna al telefono. Questa è L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sì. Pronto, ci sei? Pronto? Ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sono Daniela, sono una precaria anch'io. E aspetta anch'io... solo un attimo che vedo che non ci sentono. Sì. E pronto, ci senti adesso? Sì, pronto. Buonasera. Ciao, scusami. Prego, prego. Ciao, sono Daniela, sono anch'io una precaria ATA. E come tutti i colleghi d'Italia quest'anno sono stata vittima della opera di cancellazione di tutti i nostri posti di lavoro a causa appunto del decreto degli inidonei di cui avete parlato poco fa, che vorrebbe appunto cancellarci per sempre dalla scuola, quando sappiamo benissimo che noi precari in tanti casi reggiamo sulle nostre spalle le scuole. Notizia di questi giorni che il Ministero non ha i soldi per pagare le supplenze brevi e ci sono migliaia di colleghi che stanno lavorando senza stipendio da mesi. Questa è una cosa scandalosa e nonostante tutto tutti vanno ancora a lavorare e con la speranza poi alla fine di avere nulla, di essere cacciati definitivamente dalla scuola, perché c'è stata questa volontà del Ministro dell'Economia, del Ministro dell'Istruzione, che ha firmato il decreto nei giorni scorsi contro appunto i docenti inidonei e di conseguenza contro tutti noi. E noi sono mesi che ci impegniamo in questa battaglia insieme ai docenti inidonei, prima loro e poi ci siamo uniti noi quando abbiamo capito che se non univamo le nostre battaglie non avremmo ottenuto nulla, ed è soltanto grazie a questo anno e mezzo, due anni di manifestazioni, incontri, sit-in, incontri con i ministeri, delegazioni ricevute al MIUR, alla funzione pubblica, veramente inseguimenti dei politici per strada e poi durante la campagna elettorale, per cercare di avere attenzione e di sensibilizzare tutti quanti su questa vicenda che è stata completamente oscurata dai media. Non ne parla nessuno, sono 7.000 persone minimo che verrebbero danneggiate da questo provvedimento. E finalmente si vede uno spiraglio, perché appunto il PD si è impegnato a presentare un disegno di legge nei giorni scorsi al Senato e alla Camera. Abbiamo anche avuto l'appoggio della Presidente della Camera Boldrini e quindi questa è una grossa speranza, un grande segnale di apertura delle istituzioni. Lei soprattutto speriamo lo metta in calendario presto, se davvero è genuino questo interessamento. Sì, io ho letto anche il Movimento 5 Stelle, adesso sono anche tutti attenti. Esatto, anche il Movimento 5 Stelle ha fatto sia un'interrogazione parlamentare che un atto di sindacato ispettivo proprio al Ministro Profumo per avere chiarimenti in merito a questa vicenda, perché non si capisce come il governo uscente poter continuare a operare in senso opposto rispetto al nuovo governo, al nuovo Parlamento, che invece sta dando indicazioni appunto in direzione completamente opposta rispetto a quanto è stato predisposto dal governo Monti. Senti, quindi, insomma... Daniela, ma ecco, prossime mobilitazioni, che il personale ATA si muove molto poco, invece tu mi hai detto... Ma no, devo dire che abbiamo avuto in realtà una partecipazione in crescendo. Negli ultimi sei mesi siamo riusciti con molta pazienza e ostinazione a coinvolgere intanto i colleghi di Roma, mentre la partecipazione per esempio di altri colleghi della Campania, di Napoli o dell'Abruzzo, dall'Aquila, anche tanti siciliani hanno partecipato a queste nostre mobilitazioni, quindi devo dire insomma piano piano siamo riusciti a diventare un gruppo consistente. Ovviamente gli inidonei, paradossalmente, che sono poi quelli che hanno problemi di salute, sono sempre stati presenti e hanno sempre partecipato in numero molto maggiore, e questo era il paradosso. Per cui poi alla fine questa cosa ha fatto sì che molti si svegliassero e iniziassero a partecipare attivamente, ecco. L'ultima volta eravamo una quarantina di colleghi lì sotto. Precariata, quindi precari. Sì, sì. Precari. Sì, poi rimane sempre il problema di collegarci tra parti diverse, di lavoratori e lavoratrici, nel senso che adesso gli insegnanti di ruolo non sanno che gli insegnanti precari non ricevono lo stipendio, nessuno si è accorto di questa questione degli ATA che non hanno avuto il contratto annuale quest'anno, eccetera, e quindi forse lo sforzo nostro, vostro, di tutti, insomma, chi cerca dei percorsi di lotta è quello di coordinarli. Esatto, ma devo dire grazie ai COBAS, che è stato l'unico sindacato che realmente ha fatto qualcosa per noi e ci ha aiutati e supportati e ha coordinato le nostre mobilitazioni, perché siamo sempre stati noi lavoratori ad autorappresentarci al MIUR, alla funzione pubblica, con i politici, abbiamo sempre partecipato noi e è inutile continuare a dire che gli altri debbano fare qualcosa per noi, bisogna mobilitarsi, bisogna attivarsi, bisogna darsi da fare e smettere di piangersi addosso. E il risultato che abbiamo ottenuto, il congelamento del decreto, è solo frutto delle mobilitazioni. Va bene, Daniela. I microfoni di Radio Onda Rossa ovviamente rimangono aperti per questa questione e per tutte le questioni che riguardano i lavoratori e le lavoratrici della scuola, quindi teniamoci Senz'altro, in contatto. Noi adesso ancora non abbiamo in calendario nulla, stiamo aspettando che appunto si sappia qualcosa riguardo la sorte di questo nuovo governo, e quindi una volta che sapremo la, diciamo, la compagine politica che forma avrà, potremo decidere, insomma, passata appunto questa settimana di passione, come organizzarci. Quindi di passione in tutti i sensi, anche Pasqua. Esatto, esatto. Ciao, quindi, grazie. A voi, grazie. Ciao, mille, Daniela. Arrivederci. Ciao. Ma non possiamo restare per sempre solo paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Mi date la fiducia e poi che penso di me? Siamo il cortile dell'ultimo vero monarca che vuole tornare alla Dive ed indicare la rotta alla barca. Un popolo di santi, poeti e pensatori, di artisti, di scienziati, eroi navigatori, che per vent'anni al grido eia eia alala ha delegato ogni sua responsabilità. Tornano i conti, ma se tornano i reali ad applaudire siamo pronti. Repubblica gloriosa, dove quel che è stato, stragi comprese, poi scordammo ciò passato. Campioni del mondo della mezza soluzione, che accontenta tutti e non risolve la questione. Ma non si dia la colpa al potere a chi ce l'ha, la classe dirigente, lo specchio della società. La voce dell'arma si chianeghi ogni persona, e rutti l'Etna si risveglia quel Vesuvio, e la Valle Padana si sommersa dal diluvio. Arda la Puglia in aria di sta Basilicata, bruci la Calabria e ne sia carbonizzata. Torni alla Rigo insieme a tutti i visigodi, i paesi e le città rimangano vuoti. Poi rimane un'ultima cosa soltanto, rimane il fatto che le biblioteche delle scuole, a questo punto chi ci sarà? Perché per esempio nella mia scuola la biblioteca ormai da più di un anno non ha una persona che se ne occupi, e magari altri tempi si faceva magari rotazione con i docenti, ma non è nemmeno una cosa che puoi imporre, ci vuole comunque qualcuno che coordina, che tiene insieme la biblioteca, che capisca anche un po' di organizzazione bibliotecaria. E tant'è vero che la biblioteca nostra adesso è sede dei colloqui con i genitori da parte dei docenti, quindi proprio non è assolutamente agibile. Questo col discorso che facevo prima. E un'altra cosa soltanto da aggiungere è che i docenti e le docenti delle classi di concorso di laboratorio, insegnanti tecnico-pratici, è scritto espressamente non tanto, ma insomma ci va sempre l'interprete, ma si capisce dal decreto del 21 marzo che possono essere collocati anche come, appunto, forse l'ho detto prima, ma è bene ripeterlo, come collaboratori scolastici. Insomma, questo, al di là di qualsiasi discorso, non mi sembra giusto, perché se ho cominciato un tipo di lavoro, insomma, non è una bella cosa, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, e poi essere messo in qualche cosa a cui non avevo mai pensato, insomma, una cosa a cui non avevano mai pensato di fare, di un lavoro che non avevano pensato di fare, insomma. Poi magari in una società futura che noi auspichiamo ogni lavoro sarà uguale all'altro e magari saranno tutti retribuiti uguali e così via, ma insomma questo ancora mi pare molto lontano. The people have the power to redeem the work of fools from the meek, the grace to shower. It's decreed the people rule. People have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Torniamo in diretta all'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, allo 06 49 17 50, il telefono per partecipare chiamando. Passiamo a un altro argomento e partiamo da un lungo articolo che è uscito ieri sulla Stampa, la Stampa inteso come giornale di Torino e non come la stampa generica, insomma, che veniva addirittura annunciato in prima pagina con sotto la denominazione dossier scuola, quindi insomma anche un titolo altisonante e pretenzioso, per due pagine in cui si presentano sostanzialmente i dati che il ministro Profumo aveva presentato, scusate il gioco di parole, in una conferenza, supponiamo, il giorno precedente, perché poi insomma l'abbiamo visto anche su altri giornali, dati che riguardano la, le iscrizioni al primo anno delle superiori per l'anno 2013-2014. Andiamo a vedere cosa si dice in questi dati. Allora, intanto il titolo è Lingue e laboratori, ecco cosa vogliono gli studenti del futuro. Da dove lo deducono che vogliono le lingue e i laboratori? Lo deducono da quello che dice il ministro sostanzialmente. L'articolo di Flavia Amabile, mi dilungo un po' su questo articolo in specifico, che però, come dire, è molto omogeneo rispetto a quello che poi è uscito su Repubblica, sul Corriere. Tutta la velina del ministro sostanzialmente si è propagata sulla stampa senza che nessuno mettesse in discussione quello che stava dicendo, e quest'uomo, come fa sempre, mente, prende i dati, li forza e racconta altre cose. E anche in questo caso cosa ci dice? Materie scientifiche, lingue, manualità. È questo che hanno scelto buona parte delle famiglie e degli studenti italiani alle prese con le iscrizioni per le superiori del 2013-2014. Dice, è lì che gli italiani immaginano che esista ancora un futuro, nei numeri e nella scienza, nella fuga all'estero, evidentemente le lingue servono per emigrare, o in un'attività manuale. Finita l'epoca degli italiani popolo di umanisti e letterati, quasi azzerate le possibilità di guadagnare qualcosa con le parole, e nuovi adolescenti si affidano a altro. Calano quindi, e qui si comincia a dire vabbè, se è così, che sarà successo mai? Calano quindi le iscrizioni al liceo classico. Ma di quanto calano? Dello 0,6%. E questo è il dato più significativo, fra l'altro, di tutto quello che si presenta. Perché poi si dice anche che calano le iscrizioni al liceo scientifico tradizionale. Sì, è vero, calano di un 1,4%. Però bisogna anche sapere che lo scientifico negli ultimi 15 anni era cresciuto in maniera abnorme. E quindi questo calo io ritengo che sia fisiologico, perché si va un po' a moda, lo scientifico era veramente molto cresciuto. Però esiste un dato di fatto, che ben 85.000 studenti in Italia anche quest'anno hanno scelto lo scientifico tradizionale, sono di gran lunga il numero più alto di tutti i tipi di scuole, cioè il 16%. Però siccome c'è un calo, si dice niente, non ne vogliamo più lo scientifico tradizionale. Ma perché non lo vogliono più lo scientifico tradizionale? Cosa si vuole arrivare a dire? Inarrestabile invece l'ascesa di licei linguistici e scientifici applicati, sostanzialmente i due licei su cui ha investito la riforma Gelmini. Il primo è stato scelto dall'8,4%, il linguistico, cioè dalla metà di quelli che hanno scelto lo scientifico, però dallo 0,9 in più rispetto all'anno scorso, quindi si gioca tutto su questo, tra la percentuale e però senza guardare i dati reali, fuori di percentuale, insomma. E poi cresce anche il liceo scientifico scienze applicate, che si dice che ha, questo è veramente esilarante, dice l'articolo, una crescita senza pausa. E per forza non c'era prima, cioè non è che poteva essere meno di zero, no? E c'è da 3 anni, cioè non è che, vabbè. Di istituto tecnico, se non sbaglio, un po' più così, con lo qualche materia in più, sì, è il, no, senza no. Latino, allora, rispetto a un tecnico ha delle materie in meno rispetto all'ITI, perché manca tutta la parte meccanica, certo, eccetera. Ma rispetto allo scientifico, rispetto allo scientifico non ha latino, ha meno filosofia, certo. E in cambio, l'abbiamo detto ieri, perché poi invece qui si dice con altre cose, le andiamo a vedere. Allora, latino ha proprio cancellato, filosofia sono 2 ore la settimana invece che 3. Matematica sono meno ore che lo scientifico tradizionale, questo è incredibile, però si aggiungono 2 ore settimanali di informatica e delle ore in più di scienze al triennio. Questo è quanto hanno in più in cambio di non fare più latino, fare meno filosofia e meno matematica. Ma cosa si dice di questo scientifico che si chiama Scienze Applicate? Si dice che hanno tante, scrive la giornalista, tante ore in più di materie scientifiche e laboratorio. Ora, nel senso, c'hanno 2 ore di informatica, questo c'hanno. E meno matematica, perché questo è veramente un dato stupefacente, insomma, a fronte del modo in cui questa scuola viene presentata. Ma arriviamo alle dichiarazioni del ministro, al virgolettato. Profumo dice: le famiglie hanno reagito ancora una volta molto bene. Non si sono fatte spaventare dai dati negativi sulla cassa integrazione né dagli scenari foschi. Hanno avuto fiducia nella parte industriale del nostro paese, considerando che è solida e che conviene investire proprio sull'industria per costruire il futuro dei loro figli. Ora, dove lui abbia letto che gli italiani e le italiane hanno fiducia nella parte industriale del nostro paese, io veramente... è la conferma di un paese che funziona, che risponde concretamente alle difficoltà, perché c'è un calo, qua si dice, dei licei e ci si iscrive di più ai tecnici. Allora, i licei in totale, poi smetto di dare numeri, anche per l'anno prossimo sono le iscrizioni alle prime liceo in totale il 46,6% degli iscritti in prima. Ora, che ci sia sto grosso calo, in realtà è cresciuto di un punto, perché poi il linguistico cresce, e comunque metà degli iscritti fanno il liceo sostanzialmente, degli altri il 33% un tecnico, il 20% un professionale, e sostanzialmente i dati sono uguali all'anno prima. Sì, sostanzialmente i dati sono uguali all'anno prima, però bisognerebbe anche riflettere, proprio alla luce di queste dichiarazioni del ministro, sul che significa che metà della popolazione scolastica nazionale decida di fare un liceo. Cioè, in generale, se proprio vogliamo andare a leggere quei dati su quale sia la fiducia che la popolazione italiana ha maturato nel corso del tempo rispetto a quella che è la formazione tecnica e professionale, perché voglio dire, è un dato un po' una discrasia che metà dei ragazzi si scrivano a un liceo, quale che sia questo liceo, perché i licei hanno, diciamo, di fondo un'impostazione che privilegia un certo asse in un modo o in un altro, pur togliendo il latino, però un asse teorico rispetto a quello che è un asse tecnico pratico, e conseguentemente non mi sembra proprio che, prese nella loro globalità, le dichiarazioni del ministro possano essere rispecchiate in quelli che sono i dati di realtà in pratica. E soprattutto non mi sembra che dicano che gli italiani hanno fiducia nell'industria, al di là del fatto che... È proprio questo, emerge il contrario. Che emerge esattamente il contrario, e poi dice anche tante altre sciocchezze, fra cui l'altro aspetto positivo di questa crisi, quale fosse il primo non l'ha detto però, è che esistono attori lungimiranti che stanno non solo creando lavoro, ma anche aggregando il paese, unendolo in nome di un obiettivo comune. Cioè, sragiona. Un tempo si decideva dall'alto dove si doveva creare sviluppo industriale. Adesso sono il territorio e la ricerca a far emergere le specializzazioni settoriali. Mi auguro che il prossimo governo vada avanti lungo questa strada, mettendo in atto una politica capace di guardare a medio termine, perché soltanto sapendo e programmando si riesce a dare alle famiglie e ai ragazzi quello che chiedono in termini di formazione. Ah, che cosa stai dicendo? Il ministro dice delle cose senza senso. Se lo dessero come testo da commentare all'esame di maturità, penso che la gente, i ragazzi e le ragazze, cioè, si alzerebbero e se ne andrebbero. Comunque, perché... mi pare di intuire che il ministro dica che la politica industriale in Italia è fatta a casaccio attualmente, perché se in precedenza... E ce ne eravamo accorti. Sì, sì, questo insomma mi sembra che possiamo concordare. Però allora, visto che secondo loro parlare di scuola significa parlare di industrie, ovviamente a fianco c'è una intervista a uno di Confindustria, e in particolare a Ivano Lobello, che non è l'arbitro di calcio, ma è un signore che è vice presidente di Confindustria e ha la delega all'education, perché loro parlano in inglese, giustamente. Confindustria. Confindustria. E quest'uomo anche stragiona alquanto. E, ovviamente lui dice che i dati sono quelli che ha detto Profumo, cioè che tutti si iscrivano a tecnici, basta all'università. Forse non li ha letti i dati, ha preso la dichiarazione del ministro. E poi anche questo dice delle cose piuttosto strane, cioè dice: con i linguistici ci si presta maggiore attenzione al futuro. La conoscenza della lingua inglese è fondamentale per l'accesso al mercato del lavoro, anche per percorsi formativi di grande qualità. Ora, anche questo. L'inglese è vero che nei licei linguistici si studia 3 ore la settimana come negli scientifici e nei classici, non adesso di più. Adesso si studia da diversi anni, si studia per 5 anni nei classici, mentre una volta si studiava solo al biennio, no? E 3 ore la settimana. È che al linguistico si fanno 3 lingue, ma non è che si studia di più inglese, quindi non è che c'è questa poi dopo arriva a dire c'è una fortissima diversificazione geografica legata ai distretti industriali. Vi ripeto, si parla di scuola, questo è il dossier scuola secondo loro. Nelle aree in cui è meno rilevante la presenza industriale si assiste invece a un calo. Non si sa. E poi dice, abbiamo, non so chi, una fortissima vocazione manifatturiera. Ma da questi dati si capisce come il paese sia diversificato, eccetera, eccetera. E comunque basta, lui sostanzialmente, questo Ivano Lobello di Confindustria, dove dice che prima si pensava che la liceizzazione, che credo voglia dire aumento degli iscritti ai licei, fosse l'unico sbocco possibile, ma questo non è possibile. Insomma, sostanzialmente quello che queste due pagine tendono a dire, chiosandolo anche con un articolo di Stefano Rizzato che sottolinea che ci sono 200.000 laureati disoccupati, che credo sia molto di più, non so che dato sia, comunque, che è bene non fare l'università. Cioè quello che ministro Profumo dice è non studiate. A parte il fatto che si dice sempre no, l'Europa, l'Europa, l'Europa, che era una vacca, fra l'altro, se qualcuno si ricorda la mitologia, era quella povera ragazza insidiata da Zeus che poi fu trasformata, non mi ricordo, da chi in giovenca per sfuggire alle sue insane voglie di Zeus, che l'Italia, se non è proprio il fanalino di coda per numero di laureati e laureate, sicuramente sta a un livello molto basso. Credo no? sia il fanalino, sì, di è coda. Proprio il fanalino di coda. Allora, non si capisce perché negli altri paesi ci sono tanti e tante laureate che poi evidentemente, vabbè, in una situazione di disoccupazione quale quella che abbiamo a livello europeo, però per esempio in Grecia mica è semplice andare all'università. C'è una specie di concorsone estivo in cui si fa proprio una gara, un concorso vero e proprio per avere i posti che sono da un sacco di anni a numero non chiuso, chiusissimo. Quindi questi sono dati contraddittori. L'Europa ha vocazione manifatturiera o quello che te pare, però non si capisce perché c'abbiamo, il senso è non andate all'università. E perché a questo punto che dice il ministro può chiudere l'università, a me suona strano, no? Evidentemente è qualche cosa che diventa sempre più elitario e sempre più destinato a determinate classi sociali come era poi una volta, e dopodiché non si capisce perché comunque non andate all'università quando abbiamo il numero più basso di laureati. No, ma quello è, scusate, quello è nel senso che poi loro vogliono. Dice non andate al liceo classico, ci mandiamo solo i figli nostri al liceo classico perché questo si vuol tornare, e poi li scriviamo all'università, un'università che è per pochi e poche, perché poi alla fine è questo, la faccio sempre più cara, ti levo le borse di studio, ti dico che non serve a niente, tanto sarai disoccupato o disoccupata. E il dato preciso è che nei paesi OCSE la media dei laureati tra i 24 e i 60 anni è il 31%, in Italia è il 15%, quindi è la metà. Si sta parlando di triennale, di laurea triennale, e uno degli obiettivi dell'Europa per il 2020 è arrivare al 20, che tutti i paesi, anche l'Italia che sta sotto, arrivi al 20 per il 2020, ma ovviamente invece il ministro oggi ci dice di non andarci. No, volevo intervenire per dare proprio questi dati che hai dato tu, cioè il fatto che comunque il numero dei laureati in Italia, si parla di laureati tra i 25 e i 64 anni, per cui sostanzialmente di tutta la popolazione attiva, e sia drammaticamente basso in una maniera che veramente non è quasi confrontabile rispetto a quelli che sono, quelle che sono le medie europee, le medie degli altri paesi OCSE. E obiettivamente va sottolineato proprio il fatto che si tratta di una laurea triennale e non dei dati relativi alle lauree specialistiche, cioè alle vecchie quadriennali, alle lauree vecchio ordinamento. E questo è un dato su cui obiettivamente bisogna riflettere, ma è piuttosto evidente nelle intenzioni del ministro, ma obiettivamente molto tristemente anche nelle evidentemente intenzioni di chi recepisce i comunicati del ministro in una maniera acritica, veramente io la trovo personalmente vergognosa, ma proprio l'intenzione in qualche misura di usare questa crisi che colpisce così duramente le persone, la vita delle persone, come abbiamo cercato di dire anche prima, di usare questa crisi come una clava per andare a amplificare, ad alimentare in tutte quante le maniere quel divario che non sarà solo divario economico e divario sociale, ma che necessariamente diventerà divario culturale, e cercare di creare una classe di privilegiati che di fatto sia l'unica ad avere accesso pieno a quella che è la formazione culturale a tutto tondo di un individuo che dovrebbe normalmente fornire la scuola. A questi poi possiamo aggiungere altri dati, questi usciti ieri pubblicati dal Censis. Il Censis in realtà ha fatto un convegno sul bullismo, ha studiato le varie cause, ha studiato le varie conseguenze del bullismo, tra queste anche la dispersione scolastica, e quindi ha reso noti i dati sulla dispersione scolastica in Italia, cioè su quanti sono i ragazzi e le ragazze che abbandonano anzitempo la scuola. Sì, i ragazzi e le ragazze che abbandonano anzitempo la scuola, e anzi il Censis focalizza la propria attenzione proprio sui ragazzi che abbandonano al primo anno la scuola, cioè subito dopo essersi iscritti alla scuola superiore, superiore sono l'11,9%, per cui sostanzialmente il 12% dei ragazzi lascia la scuola, non cambia indirizzo. Poi nella scuola dell'obbligo, perché ricordiamo che ancora, no? E il biennio delle superiori è scuola dell'obbligo, cioè ricordiamoci appunto che stiamo parlando di scuola dell'obbligo e di istruzione, è il caso di dirlo, secondaria superiore appena iniziata, quindi sostanzialmente noi abbiamo ad se oggi, poi leggiamo dei tecnici e dei professionali, e le percentuali salgono tantissimo e si arriva al 30%, ed è l'esperienza di chiunque, non voglio dire abbia insegnato, abbia vissuto, ma si sia anche solo lontanamente avvicinato a un tecnico, a un professionale, dove le percentuali di abbandono sono veramente spaventose. E diciamo, a fronte di questo quadro, che obiettivamente è un quadro drammatico, e il ministro pensa appunto che sia il caso di indirizzare la popolazione italiana ai tecnici e nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali, scuole che, qualora questi ragazzi lo volessero, permettono un difficile accesso all'università obiettivamente. Non solo, ma vengono associati a questi dati poi i dati sulle scarse competenze degli studenti e delle studentesse italiane, cioè il fatto che sono i peggiori in lettura, cioè nella capacità di leggere e capire un testo in Europa, anzi tra i peggiori nei paesi OCSE, e tra i peggiori per i dati per le competenze matematiche. Io però vorrei ricordare che negli istituti tecnici e professionali, dove vogliono mandare la maggior parte dei ragazzi e dove tanti già adesso vanno, con la riforma Gelmini sono state tagliate dalle 4 alle 10 ore settimanali di scuola. La maggior parte di queste ore tagliate erano ore di italiano e laboratori, quindi è inutile che tu mi dica che gli studenti non imparano a leggere se poi non li fai andare a scuola. Sì, credo che nei tecnici e nei professionali le ore di italiano siano state proprio dimezzate, e l'abbiamo già detto, ma diversamente rispetto a quello che è gli altri ordini di scuola, sono state dimezzate da subito, dal primo anno di entrata in vigore della riforma Gelmini, su tutti e 5 o tutti e 4, insomma comunque su tutti quanti gli anni di corso, e con una ricaduta fortissima e pesantissima rispetto a queste persone. Poi diciamo, ci sono da dire diverse cose su questo. In primo luogo, quelli che sono i dati OCSE sulle competenze, perché oramai siamo abituati a usare questa parola, dei ragazzi in lettura, in matematica, in scienze, e è il discorso che abbiamo fatto da alcune puntate a questa parte. Bisogna anche vedere come vengono misurate queste competenze, perché ricordiamo così en passant che sono misurate sempre con test a crocette e che non prevedono nessun tipo di elaborazione né critica né non critica, ma semplicemente sono quiz, ed è un argomento su cui sarà opportuno tornare. Ma c'è anche evidentemente il problema su cui una parte della stampa anche oggi ritorna, cioè il problema dei tagli pazzeschi che sono stati operati su tutto quello che è il sistema di formazione italiano, dalla scuola all'università. C'è oggi sul Manifesto un articolo interessante di Roberto Ciccarelli, che fa una sintesi piuttosto efficace su quelli che sono stati i tagli, 10 miliardi di tagli al bilancio di scuola e università tra il 2008 e il 2012, e conseguentemente diciamo, si dilunga anche parecchio sulle cifre, e parla proprio del salasso delle politiche di austerità volute dal ministro dell'economia Tremonti per rispondere all'imperativo del pareggio di bilancio, ed evidentemente per andare a finanziare da una parte e sostiene chi scrive il default delle aziende di Stato decotte, appunto, e dall'altra per andare a finanziare, secondo una logica che è veramente delittuosa, quelli che sono stati poi propalati come investimenti rispetto alla crescita, per cui si taglia da una parte, si taglia il sistema scolastico per poi portare investimenti al sistema Italia e alla crescita. Comunque l'unico consiglio che si può dare a chi si affaccia al mondo della scuola superiore, a prescindere da quale scelta fa, magari di studiare da deputato o da senatore, perché sembra che questo sia un'opportunità per il futuro, amaramente, dobbiamo dire. Probabilmente è questo quello che si vuole impedire, limitare l'accesso ai ruoli dei deputati e dei senatori. Beh, basta anche un consigliere regionale, insomma, se proprio non ce la fa, se arrivare in cima, anche ai gradi intermedi, insomma, si guadagna benissimo. Visto a livello, e parlo in generale, parlo anche della scorsa legislatura, insomma, non è che deve, sono richieste queste capacità. Se poi i prodotti sono queste leggi, questi decreti, che a prescindere dal contenuto sono veramente ostici da capire... Ma lo scopo è quello, vabbè, però insomma, ma dice perché, un certo talento. Perché, ma poi dice perché usano un linguaggio giuridico, eccetera. No, no, perché sono proprio scritti male. Sì, sono scritti con un linguaggio veramente pazzesco e tra l'altro sgrammaticato. Detto questo, 16:58, l'ora di buco vi saluta anche per questa settimana. Vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 16, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lascia i microfoni al martedì autogestito da femministe e lesbiche. E niente, buon ascolto. Insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa?